13. Echi di martello, rintocchi di chiodi che bucano legno, stridore di seghe, sbattere di travi, sgorbie che intagliano e pialle che lisciano, canti di lavoro, grida e imprecazioni. Joseph scese al fiume. Piccoli falò spandevano odore di pece nell'aria di primavera. Raggiunse i giovani del suo clan e domandò a Canenonte a che punto fossero i preparativi. «Abbiamo riparato 7 scafi, gli altri cascano a pezzi». Qualcuno accese una pipa e gliela offrì. Joseph tirò una boccata. «Ce ne vorranno almeno una ventina. Di cosa avete bisogno?» «Assi», rispose Oron Yateka. «Ne restano per 3 battelli, poi barattoli di vernice, almeno 30, e scatole di chiodi, tutti i chiodi della valle». Joseph lo rassicurò. Nella segheria di Canaio Harie sfilava da giorni una colonna di tronchi. La materia prima non sarebbe mancata. Quanto al resto, Molly attendeva un carico da New York. Domandò se ci fosse altro, quindi si alzò e prese il sentiero che risaliva all'emporio. I rumori del lavoro lo inseguirono per la scarpata. Da mesi non vedeva tanta attività attorno al molo. Da quando il porto di Boston era chiuso, l'aria cattiva che spirava dalla costa soffocava il commercio. Chi si guadagnava il pane come barcaiolo restava all'asciutto e i battelli marcivano sulle rive del Mohawk. La novità si chiamava Oswego, un concilio, l'occasione di ascoltare oratori illustri, incontrare amici e parenti lontani, rinsaldare alleanze, celebrare nascite e matrimoni, feste, rum, gioco d'azzardo, ancora più importante, regali. Per il dipartimento, radunare gli indiani significava mostrare i muscoli e, senza doni abbondanti, anche il genero di Sir William rischiava di apparire gracile. Il messaggio doveva giungere chiaro. La dispensa di Johnson Hall era sempre piena, a disposizione degli amici fedeli. Concilio significava affari. Oswego era il porto più importante dei Grandi Laghi, terra di latte e miele, di grano e salmoni, dove le navi inglesi non avevano mai smesso di attraccare. A Canaio Harie anche le famiglie più ricche erano ormai alle scorte e il nuovo raccolto si annunciava a scarso. Il fumo dei sacrifici non risvegliava le tre sorelle. Pannocchia, fagiolo e zucca erano stanche e anche San Giovanni sembrava sordo alle preghiere. Mancavano attrezzi e sementi, mancavano fucili e munizioni. Chi vendeva pellicce non guadagnava abbastanza e se alzava il prezzo poteva tenersele e morire di fame al caldo. Convincere la sua gente non era costato a Joseph troppa fatica. Molti avevano accolto la partenza come promessa di un inverno più dolce. Arrivato all'emporio, Joseph trovò la porta serrata. Bussò invano più volte, poi sedette ad aspettare e l'ansia della partenza allagò i pensieri. Un viaggio lungo e sfiancante, 150 miglia stretti sui battelli, la notte coperte umide e nugoli di zanzare. Sir John sarebbe rimasto con la famiglia a Johnson Hall. Guy Johnson portava a Oswego le figlie e la moglie incinta. Per i suoi Joseph meditava un altro approdo. Non voleva averli con sé, ma neppure lasciarli alla fattoria. Senza tanti guerrieri, la valle era poco sicura. Potevano andare dai parenti Oneida, 80 miglia più a sud, a Oquaga, un villaggio ricco e ancora lontano dai disordini. Il tocco di una mano interruppe le riflessioni. Joseph capì e si voltò, senza un sussulto. Molly era più silenziosa di un falco. Alcuni bianchi giuravano di averla vista mutarsi in picchio, prendere il volo e poi tornare donna poco più in là. «Impossibile», rispondeva Joseph. «Mia sorella ama camminare». Certo, non s'era allontanata dall'emporio per una passeggiata. «Hanno sequestrato il carico da New York», disse, «ieri mattina, poco prima di Fort Hunter». «Da chi l'hai saputo?» «Uno dei barcaioli. Ha trovato un cavallo ed è venuto fin qui. Se gli vuoi parlare, sta ancora alla locanda». «Non serve. Raduno i guerrieri e andiamo a riprenderci la roba». «Conosci Guy Johnson», ribatté Molly. «Preferirà pagare un altro carico. Non vuole guai prima della partenza». «Un altro carico può impiegare settimane. La ferramenta per i battelli serve adesso». «Posso procurare qualcosa per non fermare i lavori. Tu hai un compito più importante». Joseph rimase in silenzio. «Il sogno si fa sempre più chiaro», disse Molly. «Il guerriero che scava con te è Ronate Rihonte». Joseph restò a bocca aperta. Non udiva quel nome da molto tempo. «Devi andare a chiamarlo. Verrà con te a Oswego». Joseph allargò le braccia, incredulo. con tutto quello che c'è da fare. Ci vogliono giorni per raggiungere il suo capanno. È il sogno che lo chiede. Le donne sono concordi. Lui non obbedisce ai sogni, ma mio fratello sì. Tu saprai convincerlo. Molly slacciò dal polso destro un bracciale di wampum. Portagli questo, disse. Non potrà rifiutare.